Cominciamo. Si sente? No. Eccoci qui, dai, forse ci siamo. Buonasera, benvenuti, bentrovati, anzi, siamo arrivati alla fine di questo percorso di incontro, di formazione. Spero che per voi sia stato utile, proficuo, e naturalmente non si tratta di una fine di un percorso, ma semmai di un inizio di una serie di relazioni, sia al vostro interno, tra di voi, che si sono magari formate e che si andranno consolidando nel corso del prossimo periodo, sia con i relatori che avete incontrato e chi è intervenuto nel corso di questa settimana. Ci sarà occasione, diciamo, intanto per vedere il lavoro che è stato fatto nel corso di questa settimana e poi di commentarlo insieme ad alcuni ospiti, a cominciare dal vice sindaco Vito Partipilo del comune che ci ospita di Silvi, Giuseppe Di Marco, presidente di Lega Ambiente Abruzzo, Susanna Mensitieri e Stefano Landi della LUIS Guido Carli di Roma, che accompagnano Vivi l'Italia in questa definizione del percorso formativo del corso Asta, ed esperti ovviamente del settore turistico che a voi sta a cuore. Io comincerei lasciando la parola ai due coordinatori del corso, Guido Capanna Pisciè e Diego Albanese, che per tutta la settimana vi hanno accompagnato e che hanno costruito, diciamo, quello che è un po' il risultato, e adesso ce lo racconteranno quello che è il risultato di questa settimana. Allora, grazie, buonasera, ben trovati tutti. Più che raccontarlo noi, lo faremo raccontare Sì. Chi diciamo l'ha fatto. Sì, ha fatto questo percorso, ha vissuto un percorso, così come diceva Sebastiano, almeno visto da parte nostra, da esterni, un percorso di relazioni anche nuove, no? Che si stringevano man mano che crescevano diciamo, le giornate formative attorno a quello che sostanzialmente vediamo qui proiettato, proprio perché al centro, diciamo, chiaramente del dibattito c'era il turismo sostenibile, che poi è stato declinato chiaramente in tutte quelle che sono diciamo tutte le parole chiave portanti, no? Che poi portano alla definizione di una destinazione che può fregiarsi, diciamo, di un appeal legato al turismo sostenibile, quindi alla sostenibilità, per arrivare quindi a plasmare quello che diventa un concetto di qualità di territorio, ma ci arriveremo dopo magari anche con le parole proprio degli operatori turistici, perché è di questo che parliamo. La fortuna è stata, quindi dicevo, al centro la biodiversità, al centro è la sostenibilità legato a quello che è l'area marina protetta della Torre del Cerrano. Quindi la biodiversità, quindi come valore aggiunto, no? di un'offerta che noi abbiamo definito con relatori provenienti un po' da tutta Italia, abbiamo maturato esperienze simili, ma simili in partenza, diverse poi chiaramente in prospettiva, una biodiversità che, se tutelata, può diventare veramente l'anello, diciamo, vincente, no? Per agganciare il mercato. Abbiamo parlato con loro di mercati, di commercializzazione, di sviluppo di nuovi prodotti, anche di innalzamento proprio della qualità. Spesso ci siamo interrogati con i corsisti proprio rispetto al target attuale, quindi quello potenziale, ma quello potenziale lo si raggiunge, e lo abbiamo discusso, proprio in una logica di innalzamento della qualità del territorio, e quindi mettendo al centro quello che è la tutela della biodiversità. Quindi tutela da una parte, area marina protetta, valorizzazione del territorio da parte degli operatori turistici a finalità turistica, con i turisti che stanno nel mezzo e che riconoscono questo binomio, però deve esserci sinergia, quindi abbiamo lavorato tantissimo su questo, lo vedremo poi anche alla fine, diciamo, dopo che saranno intervenuti anche loro. Ci siamo anche dati degli obiettivi, dei compiti a casa, no? Proprio per cercare di far sì che quest'humus che si è creato in queste giornate possa avere subito uno sviluppo, una continuità, e tradursi in azioni concrete e fattive, perché di quello che parliamo. L'obiettivo specifico che si era posto il corso era quello proprio di creare un club della qualità dell'ospitalità, proprio perché l'area marina protetta Torre del Cerrano, così come diverse aree naturali d'Italia, ha sposato un percorso importante, che è quello anche della CEZ, della Carta Europea del Turismo Sostenibile. Ha già superato la fase 1, ci sarà la fase 2 che riguarderà direttamente gli operatori turistici. Quindi iniziare un percorso, ed è proprio qui che si inserisce anche questo tipo di attività che abbiamo portato in questa settimana avanti, significa iniziare a costruire, no, e a metabolizzare quella qualità diciamo di prodotto che viene e quindi di somministrazione, di gestione del territorio, di gestione delle proprie delle singole imprese, che viene richiesta in questo percorso della CEZ in fase 2, che poi verrà attivata, diciamo, in avanti proprio dall'area marina protetta. Una CEZ fase 2 che abbiamo imparato e anche discusso con i relatori, con Katzenberger del Parco Naturale Adamello Brenta, con Ettore Ciola del Parco Dune Costiere, con una realtà su quale abbiamo potuto costruire molta relazione, no, rispetto a un percorso che loro hanno fatto, avendo un prodotto molto analogo a quello che noi viviamo, da opportunità in fase 3, che era poi quella della promozione e della commercializzazione turistica. Quindi, così come dicevamo, la biodiversità tutela da una parte, opportunità dall'altra, quindi è questo su quello che abbiamo cercato di lavorare, ma non per autoconvincerci, perché magari individualmente abbiamo trovato un sistema di relazioni e di attaccamento al territorio, all'area marina evidente, però per far sì che questo possa diciamo emergere e definirsi poi in gergo quello che sarà un prodotto turistico, una destinazione turistica sostenibile, c'è bisogno, diciamo, di relazione, condivisione, tutta una serie di parole che noi avevamo già detto per chi c'era nel convegno iniziale e che con questa prima settimana abbiamo diciamo cominciato a suggellare, a costruire. Quindi dicevo, abbiamo già condiviso quindi un percorso che adesso vi racconteranno direttamente gli operatori turistici. Abbiamo definito quello che è un primo disciplinare dei qualità hotel, diciamo, dell'area marina protetta Torre del Cerano, che si va ad affiancare ad un percorso che l'area marina protetta ha già iniziato con i lidi, con gli stabilimenti balneari. Quindi sapete benissimo, no? il settore del turismo si muove anche per categorie, no? Quindi i lidi sono arrivati prima, diciamo, qualche anno fa, adesso si ragionerà con l'ospitalità, poi si ragionerà sicuramente con i servizi, però il tutto deve diventare un sistema integrato, questo l'abbiamo imparato, quindi non c'è distinzione, ma il fatto di dover lavorare in una logica di qualità di strumenti è solamente perché diciamo, ogni attività, ogni settore deve poi rispondere a un disciplinare, a degli standard, può creare una rete interna e poi esterna al territorio di tipo diverso. E quindi vedremo anche questo percorso della qualità. Quindi io lascio la parola agli operatori per avere all'inizio un'idea di quello che, diciamo, il corso è riuscito a trasmettere a loro. Non so se Guido vuole aggiungere qualcosa, poi vediamo un attimino il risultato per questa definizione del club ospitalità della qualità dell'area marina protetta, e poi magari diamo anche un'occhiata ai compiti a casa che ci siamo fatti. Silvi Pineto, perché da oggi in poi non esiste più Silvi e Pineto, ma sono Silvi e Pineto insieme, quindi Valeria e Claudia, albergatrici entrambe. Allora, buonasera a tutti. L'esperienza di questo corso è stata sicuramente molto proficua dal punto di vista relazionale in primis. Ci siamo conosciuti, abbiamo conosciuto e fatto amicizie al di là anche di questo corso con gli operatori, e dal punto di vista contenutistico davvero tante esperienze utili che pian piano, non domani, potremo iniziare a pensare di calare nel nostro contesto. Bella l'idea di costruire, di attraversare l'Italia in toto, quindi partendo dall'esperienza della Val di Fiemme piuttosto che del Trentino, ma anche quella delle dune, del parco delle dune, quindi Fasano, Otranto, Ostuni, chiedo scusa. Mi è piaciuto molto questo, mi è piaciuto anche molto il ruolo dei tutor che hanno sempre cercato di riportare al nostro contesto, di chiarire i punti che non fossero chiari, di sintetizzare, di creare gruppo. Quindi grazie anche ai tutor per il proficuo svolgimento. quella. Qualcuno di noi come operatori aveva già manifestato una certa sensibilità a questi temi legati allo sviluppo del turismo sostenibile, anche già dalla fase 1 della CEZ. Adesso ancora di più siamo chiamati a viverla in prima persona, non ci possiamo più esimere, diciamo così. Questa mattina abbiamo anche provato a fare un esercizio, cioè quello di capire quali potessero essere tutti i valori di cui questo parco della qualità che stiamo costruendo si fa portatore. E siamo arrivati ad un livello ancora più avanzato di questo, perché abbiamo, mi sembra in maniera del tutto unanime, condiviso, naturale, è naturale, condiviso quella che è stata una bozza di disciplinare che ci è stata sottoposta, quindi anche in maniera fattiva, proprio dal punto di vista delle azioni, abbiamo sposato e abbiamo anche provato a declinarle nel nostro contesto. Il lavoro iniziale, ecco, è stato quello di buttar giù tutti i temi collegati al qualità parco, ai valori di cui può essere portatore questo qualità parco, e come vedete ne sono venuti fuori un'infinità. Ovviamente tutti ruotano attorno a quelli che sono i macro concetti di territorio e di qualità. A me uno in particolare è rimasto impresso durante questo percorso, che è quello legato al cambiamento. Il dottor Felicetti, infatti, che ieri ha fatto un intervento della Val di Fiemme, ha aperto il suo intervento proprio con una frase di memoria darwiniana che mi è rimasta impressa, che è quella del cambiamento. Tutte le specie che sono inclini al cambiamento, anche se sono forti o se sono più intelligenti delle altre, non sopravvivono se non sono appunto inclini al cambiamento. Quindi questo è un primo tema fortissimo di riflessione. Il cambiamento è una realtà ineludibile, quanto più nel turismo vive un ritmo rapidissimo, per cui non possiamo non solo non farne parte perché è in atto, ma decidere in maniera concreta quando e come mettere in atto questo cambiamento. Ripeto, ecco, già il fatto che abbiamo deciso di condividere tutti assieme addirittura già una prima bozza di disciplinare mi sembra che manifesti questa volontà anche da parte degli operatori di andare verso il cambiamento. Altro tema che diciamo possiamo far confluire in questo macro contenitore che a me è piaciuto particolarmente è quello della rete. La rete ha praticamente pervaso l'intera settimana di corso. Rete innanzitutto come conoscenza, ci siamo conosciuti tra operatori. Io non conoscevo praticamente nessuno, pensavo di avere questa mancanza, diciamo così. Io non sono una diretta operatrice, ma sono una dipendente di questa struttura nella quale siamo adesso. Quale struttura siete? Di questa, Abruzzo Marino Hotel. Ma mi sono resa conto che in realtà anche molti degli operatori stessi non si conoscevano tra loro, quindi in primis questa occasione di conoscenza tra di noi, un'occasione anche di condivisione delle nostre esperienze. Molte delle nostre esperienze ho visto essere differenti, nonostante viviamo nello stesso territorio, di condivisione ovviamente di valori e di condivisione di valori dell'area marina protetta. E anche qui alla fine di questa settimana mi sembra che abbiamo centrato appieno questo tema della rete. Ovviamente la volontà è quella di continuare a fare rete in futuro, e non soltanto con dei tavoli di lavoro tecnici, ma proprio in maniera, in senso lato, ecco. E poi un altro concetto molto diciamo un po' diverso, ma che comunque riguarda il turismo, il prodotto, che mi è piaciuto molto, è quello dell'emozione. Il turista oggi non cerca più la stanza d'albergo o il pacchetto servizi ad essa collegati, questo lo sappiamo bene ormai. Il turista cerca un'esperienza completa nel territorio, quindi come fare a veicolare, a distribuire questo prodotto insieme innanzitutto, e aggiungendo un elemento di unicità e di emozionalità a questo prodotto che insieme possiamo costruire. Diceva proprio ieri Felicetti, dobbiamo diventare un parco delle emozioni, così come anche Grigolli diceva, è finita l'era del sightseeing, cioè del vedere ciò che bisogna, che una volta, diciamo, quei must che bisognava vedere nel territorio e spuntarli nell'agenda, e passare al concetto di sight feeling, quindi di sentire, di vivere a 360 gradi, un'esperienza che resterà nella memoria, perché se la leghiamo alle emozioni sicuramente potremo agire sulla sfera del ricordo positivo. Passo la parola alla mia collega Pinetese. Bene, sicuramente ha colto nel segno Claudia dicendo che è stato un percorso partecipativo utile e anche necessario. Noi avevamo bisogno di sederci, guardarci ed ascoltarci, avevamo bisogno di parlare in questo modo connotato di forte progettualità con l'area marina, e avevamo bisogno di parlare di progetti anche tra di noi, delle cose possibili, pensare un futuro insieme, basato sugli elementi di identità di questo nostro territorio che, essendo tutti del posto, tutti amiamo, ognuno con le sue memorie, con le sue storie, e questi elementi possono, devono essere messi in comune. Quando abbiamo fatto una piccola visita sono venuti fuori dei racconti di alcuni di noi, è stata una ricchezza per tutti gli altri, ne abbiamo parlato più volte poi nei giorni successivi. Quindi sicuramente dobbiamo raccoglierci un attimo intorno agli elementi che identificano la bellezza di questo posto, a cui siamo legati, la bellezza, ma anche gli elementi culturali, le nostre storie. E bisogna anche che noi ce ne facciamo carico, quindi la seconda parola, oltre a identità, è per me impegno. Impegno a tutelare quello che ciascuno nel suo campo, nella sua attività, può fare per contribuire alla bellezza di quest'area, alla tutela di quest'area, e impegno perché ciascuno di noi deve fare un tratto di strada, deve prendersi delle responsabilità, fare, diciamo, i suoi piccoli compiti, quindi darsi degli obiettivi e cercare di portarli a termine. Quindi le parole sono sicuramente identità, impegno e progetto. Il progetto è un termine ampio sotto cui raccogliamo sicuramente una visione di come si può sviluppare, come può diventare questa nostra area se meglio gestita e tutelata, quindi se i suoi elementi di bellezza, magari un po' fragile in questo momento, si vengono difesi, se ce ne curiamo un po' tutti, sicuramente possono diventare un forte elemento di unicità e di sviluppo poi dialettico con la tutela. Quindi un elemento fondamentale è il dialogo, l'ascolto e la progettualità delle attività in una dialettica continua. Spero che questo percorso sia stato un innesco e che non finisca qui, ma che anzi abbia, come dire, una continuità e ci permetta di veramente strutturare insieme dei percorsi. Ne hanno bisogno gli operatori, credo ne abbia bisogno anche l'area marina, è un bel progetto in cui noi crediamo, vogliamo, ci siamo tutti molto appassionati e quindi bello. Speriamo, sì, davvero bello. Bello. Grazie, perché veramente credo che adesso abbiamo parlato io e Claudia, però tutti quanti hanno provato dei momenti di sincera emozione, come avete visto voi prima un video e anche voi ha toccato qualche corda, noi l'abbiamo vissuto un po' in tutti questi 7 giorni, anche attraverso le testimonianze altrui, ciascuno di noi pensava cosa avremmo potuto fare qui, come avremmo potuto, così abbiamo fatto un piccolo sogno collettivo. Va bene, vi ringrazio, passo la parola. Grazie. Come vedete è stata una selezione delle parole, perché poi si sarebbe voluto parlare di cultura, di bellezza, quindi volutamente abbiamo stretto, ma su ognuna di queste si è costruito qualcosa in questa settimana, questo anche grazie a quello che il parco ha già iniziato ad innescare, grazie alle guide, no? Adesso in particolare Davide e Paola che ci hanno seguito, hanno fatto le escursioni, perché poi uno degli elementi importanti, no? Nella logica anche di riuscire a rendere più fruibile quello che diventerà ci auguriamo, no? E siamo qui per questo, oggi in poi la nostra punta di diamante del territorio, no? Dell'unica area marina protetta del medio Adriatico, no? Quindi qualcosa che ci distingue fino a Miramare e fino a, diciamo, la Puglia, no? Ce l'abbiamo solo noi. Quindi fino alle Tremiti, quindi capite il valore sul quale dell'elemento su cui stiamo lavorando. Proseguiamo con un altro operatore, cercando di adesso di diciamo affrontando un pochino quello che è questo disciplinare, questi principi, anche in maniera così basilare, perché poi chiaramente si sono approfonditi, sono stati discussi in aula. Quello che vi dicevo prima, in affiancamento al Lido Amico del Parco, è stato definito a questo che ancora deve prendere, forse più che crepe, comunque l'ospitalità di qualità. Adesso si troverà una definizione, perché il club, poi ragionandolo, sembrava quando non c'è nessuno, non ci si chiude, ci si apre, chiaramente. Quindi invito Fabiano a raccontarci quello che è diventata realtà, direi, no? Allora, buon pomeriggio a tutti. Come un po' velocemente, come nasce questo corso? Il corso nasce perché, prima di tutto, ci siamo posti due domande come consiglio di amministrazione dell'area marina protetta. La prima domanda è relativa a che cosa può fare l'area marina protetta per il territorio in un'ottica di sviluppo del turismo responsabile, perché è una delle funzioni dell'area marina protetta, è quella dello sviluppo del turismo responsabile, la promozione del turismo responsabile. La seconda domanda che ci siamo posti è che cosa possono fare gli operatori turistici per l'area marina protetta, perché bisogna andare un po' a braccetto per muoversi, per svilupparsi insieme. Io dico sempre che la nostra area marina protetta è una delle più giovani in Italia. Come dice l'esempio del direttore di qualche giorno fa, siamo come un bambino, perché ci siamo da 7 anni, abbiamo appena cominciato a camminare, abbiamo un lungo percorso da fare, però lo dobbiamo fare insieme, lo deve fare l'area marina protetta, come la gestione dell'area marina protetta, ma deve farlo obbligatoriamente insieme agli operatori del territorio. Dobbiamo cominciare a camminare con le nostre gambe. Allora l'idea qual è stata? Dice ok, sediamoci, anche a seguito di incontri che abbiamo avuto in Italia, abbiamo cercato un po', tante volte, rubare delle buone pratiche, delle buone esperienze, non fa male, soprattutto per noi che siamo un po' più giovani come territorio sotto questo aspetto. Allora abbiamo detto ok, cominciamo, partiamo con un corso dedicato agli operatori turistici che gli permetta realmente di fare rete. Noi operatori fare rete l'abbiamo sentito tantissime volte, però poi poche volte ci si riesce. Allora abbiamo pensato a un momento di aggregazione che è stato questo qui del corso Asta, insieme a Sebastiano, Vivi l'Italia, insomma è stata una bella realtà. Si è detto, e poi usciamo con qualcosa che possa realmente portare un'utilità agli operatori, ma anche all'area marina protetta, perché come dicevo le cose dobbiamo farle sempre insieme. Abbiamo pensato di sviluppare quello che è durante questa settimana, perché le idee non sono venute soltanto noi abbiamo dato degli input, abbiamo dato, ma la maggior parte delle idee le hanno date gli operatori che ci sono stati in questa settimana di corso. Abbiamo cercato di sviluppare quello che potrebbe essere ora sulla scia di quello che è un progetto già esistente all'area marina protetta, già consolidato, che è quello del Lido Amico del Parco. Abbiamo cercato di sviluppare un prodotto simile per quelle che sono le strutture più ricettive, più dell'ospitalità. E abbiamo pensato di creare, ora non vedete il logo, non vedete l'immagine, perché sarà tutto sviluppare questo, qualcosa che riguardi l'ospitalità, un club di strutture che raccolgono delle buone pratiche per ciò che riguarda l'aspetto, lo sviluppo e la promozione del turismo responsabile. Quali sono gli obiettivi? Cerco di andare veloce perché altrimenti sarebbe veramente tantissima roba. L'idea qual è? Abbiamo buttato le basi in questa settimana insieme, abbiamo creato una sorta di quello che potrebbe essere una bozza di disciplinare. L'idea adesso, che abbiamo gli argomenti, sederci come area marina protetta per svilupparlo meglio, questo disciplinare e quelle che saranno le modalità di partecipazione a questo club, o il nome che andremo a sviluppare, pubblicarlo sul portale istituzione dell'area marina protetta e far partire proprio un processo di presentazione delle domande delle strutture che vogliono entrare in questa sorta di club di qualità. Gli obiettivi quali sono? Gli obiettivi sono quelli della realizzazione del turismo sostenibile, volti a migliorare la vivibilità del territorio ricercando convergenze con settori sociali che riconoscono nella qualità dell'ambiente una condizione necessaria e un'opportunità per svolgere le loro attività ed essere più competitivi sul mercato. Diciamo una definizione abbastanza standard. Quello che è importante è il concetto finale. Come dicevamo prima, tutte quelle parole che sono state sviluppate nelle slide precedenti ruotano attorno al tema del club di qualità. Gli attori principali naturalmente sono l'area marina protetta Torre del Cerrano, le residenze turistiche alberghiere, le case per vacanze residence, i bed and breakfast, campeggi e villaggi, gli alberghi, l'affittacamere, country house, agriturismi. Se avete tanto siamo ancora in fase di sviluppo, se ci sono ancora consigli, ripensamenti, perché l'abbiamo programmato questa mattina, quindi se ci sono ancora consigli, ripensamenti, possiamo ancora modificarlo anche nei prossimi giorni. Abbiamo sviluppato, prego. Appunto, bisogna tenere sempre aperta la cosa. Nel sì, senso che certo, certo, come no. Certo. Allora, certo. Proprio anche per rispettare questa metamorfosi, questo cambiamento continuo, se siamo così svegli da essere pronti a cambiare ogni giorno, direi proprio ogni giorno, in funzione di nuove notizie che ci arrivano, che magari prima non conoscevamo, credo che possa diventare una cosa straordinaria, possa essere questo qui, lo dico anche chi insomma, ha fatto parte in passato di associazioni albergatori, associazioni di stabilimenti balneari, veramente troppo primitive come concetto, nel senso che erano chiuse dentro un guscio, e allora noi, non so, dell'associazione albergatori di Silvi, un po' temevamo l'associazione albergatori di Pineto, pensate proprio alla solidità, gli stabilimenti balneari contro l'associazione albergatori contro quelli che affittano le camere, quelli che affittano, parlo delle agenzie tipo proprio titolare, cioè il gestore di questo albergo in passato, c'era questo lavoro di affittare le camere, appartamenti per vacanze, eccetera. Ebbene, tutto questo è stato davvero dannosissimo. Il fatto che tanti ragazzi, giovani, operatori, siano così volentieri, abbiano volentieri partecipato a questa cosa che è pregevole, mi permette di dire che potrebbe essere l'inizio, una leva per dare vita finalmente a una associazione che sotto il cappello proprio dell'area marina protetta, che quindi diventa un super territorio, un super parco, insomma, perché coinvolge tutto, compreso secondo me anche il medico condotto, tanto per dire, perché tutti creiamo beneficio da questa linfa che ci deriva dalla, come dire, da una cosa naturale, perché mica l'abbiamo cercata noi, questa roba qua, ce la siamo trovata così, calata dal cielo. E penso che proprio questo cappello, questa direzione, non so, questa specie di iperuranio, ecco, chiamiamolo così, possa permettere a tutti quanti noi finalmente di essere coinvolti insieme. E non ha senso che Silvi lavori per i fatti suoi e Pineto per i fatti suoi, ormai già siamo lo stesso un microbo, ora all'inizio questi due microbi forse fanno una merda, no? Cioè voglio dire, che cosa ci impedisce di, possono esserci tante piccole situazioni che vanno risolte, perché ricordo ai colleghi albergatori o chi ha bed and breakfast o camping o quant'altro, che una dei danni più grossi che riusciamo a ricevere per quanto riguarda l'ambiente in genere, quindi anche danni che provochiamo al di fuori delle terre del Cerrano, è legato a un utilizzo assurdo, pazzesco, insomma, di tutto quello che possiamo avere, dagli alimenti che sono una cosa indegna, insomma, veramente indegna. Questa mattina sono stato in un supermercato, non c'è una patata di Avezzano, non c'è una patata da compra del Fucino, ma guardate che è una cosa veramente bestiale, insomma. Però certo, la terra del Cerrano, la torre del Cerrano, la terra del Cerrano, l'area marina protetta, mica posso risolvere questo problema, ma è solo per mettere un puntino su questa I dannosissima che veramente si fa capire, ma come? Noi che siamo produttori di patate fra le migliori del mondo, le patate abruzzesi, non riusciamo a comprare a negozio una patata abruzzese, ma mi pare normale una roba del genere. Ebbene, io credo che proprio questo impulso che dobbiamo prendere, affamati proprio finalmente di stare insieme, di portare avanti un discorso, deve davvero, non so, domani mattina cominciamo a lavorare, non so, dobbiamo veramente darci da fare, quindi grazie di questo invito. A lei. L'idea è proprio quella, veramente questa settimana un po' abbiamo accelerato proprio per avere qualcosa di concreto e partire subito, perché sappiamo che poi se le allunghiamo troppo le cose un po' si perdono, quindi questo era il momento buono per chiuderlo e per portarlo in questo maniera concreta. È una bozza che poi manderemo, è una bozza molto... Dopo, quando è stato questa presentazione generale, magari ci osserviamo su alcuni punti. Le vediamo, perché quella è una bozza, poi l'abbiamo corretta. Allora, l'idea qual è stata? È stata proprio quella di partire da una sorta di disciplinare che sia comunque sia concretamente attuabile nel territorio, perché se partiamo subito con un livello alto che poi magari non siamo in grado di gestire, ma non perché non abbiamo le strutture pronte, perché il nostro percorso è ancora all'inizio, soltanto per quello, abbiamo cercato di fare qualcosa semplice, come dicevamo prima, che possa rimanere aperto nei prossimi anni, possa essere anche modificato e migliorato sempre di più. Allora, siamo partiti da concetti standard, da quelli che sono i principi fondamentali che ruotano anche attorno al tema del turismo sostenibile. Riduzione dell'impatto sul territorio delle attività correlate alla gestione della città, da sensibilizzare le strutture ricettive ad applicare nella gestione quotidiana piccole ed efficaci iniziative volte alla riduzione dei consumi, incentivare le strutture ricettive del gruppo ad utilizzare tecnologie ecocompatibili e fonti energetiche alternative, può promuovere e soddisfare un tipo di turismo responsabile, attento all'ecologia, coinvolgere gli ospiti nelle scelte ecologiche, per esempio invitandoli ad adottare durante il soggiorno dei piccoli accorgimenti a difesa del nostro patrimonio ambientale e sostenere iniziative che puntino alla promozione e conoscenza delle tradizioni. Su questi che sono dei principi fondamentali, abbastanza riconosciuti, abbastanza semplici, abbiamo cominciato a lavorare su una bozza di disciplinare. Ci siamo dati, diciamo, delle 10 regole, diciamo, 10 regole generali sulle quali ogni struttura può fare qualcosa. Ve li spiego velocemente perché tanto dovremo ancora lavorarci e migliorarli. Però questo lavoro, ognuno di questi punti, è dato dalle modifiche che durante questa settimana, soprattutto durante gli ultimi 2 giorni, sono proprio gli operatori del territorio ad aver proposto, perché noi abbiamo dato una bozza che è quella lì. Ma gli operatori del territorio tra ieri e oggi ci hanno detto, ci hanno scritto, poi non so se poi lo faremo vedere più precisamente, che cosa possono fare loro e che cosa deve fare l'area marina protetta. Cioè loro hanno fatto autocritica, loro dice ok, noi possiamo fare questo di più, questo non lo facciamo, questo possiamo migliorare. Allo stesso punto hanno detto ok, questo può fare l'area marina protetta che ancora non lo sta facendo, oppure ha cominciato a farlo ma può farlo meglio. Quindi è una sorta di autocritica costruttiva dell'area marina protetta e degli operatori del territorio che ci porta tutti insieme a sviluppare un turismo responsabile, che è quello che si sposa pienamente con l'area marina protetta e che è quello che in maniera naturale possiamo cominciare a fare. Il primo punto riguarda la riduzione, il riuso e il riciclaggio dei rifiuti. Ogni punto può essere sviluppato con una serie di metodologie. Quindi non ve le elenco tutte quante per velocità, perché altrimenti finiremmo veramente tardi. Il secondo punto riguarda il risparmio idrico, le tecnologie volte a ridurre lo spreco idrico all'interno delle strutture. Il terzo punto riguarda il risparmio energetico. Il quarto punto riguarda l'alimentazione, come dicevamo prima, quindi promuovere, utilizzare prodotti del territorio. Sappiamo che su questo punto abbiamo ancora tanta strada da fare. Quinto punto, il trasporto collettivo e la mobilità leggera. Parliamo sempre, quante volte parliamo cicloturismo, facciamo cicloturismo, ma effettivamente le strutture che cosa possono fare per incentivare la mobilità leggera e che cosa può fare l'area marina protetta per incentivare? Possiamo fare tanto, non è eccessivamente costoso e possiamo cominciarlo a fare anche da subito. Il sesto punto, combattere tra virgolette il rumore, che non significa non fare feste, magari come può intenderlo qualcuno, oppure dici spegniamo i 2 paesi di Pineto e Silvi. Il settimo punto, la promozione dei beni naturali e culturali, cioè sulla promozione dobbiamo fare ancora tanto, perché abbiamo visto anche in questa settimana che tante volte noi pecchiamo probabilmente nel promuoverli, come area marina protetta, pecchiamo nel promuovere le attività che abbiamo sul territorio, E tante volte capita che gli operatori del territorio non conoscono tutte le attività che vengono fatte all'interno dell'area marina protetta. Quindi, se non lo conoscono gli operatori, non possono conoscere nemmeno i turisti che sono all'interno di quelle strutture. L'ottavo punto, l'utilizzo, questa è un'immagine che abbiamo preso da internet per far vedere che ci sono tanti prodotti per l'igiene, per il cambio degli asciugamani, tante tecnologie che ci aiutano ad avere un minore impatto ambientale. L'architettura e l'arredamento, le modifiche che si possono fare nel tempo, per ciò che riguarda l'architettura e l'arredamento, diciamo per esempio la messa a dimora di piante autoctone all'interno dei giardini delle strutture, una cosa abbastanza semplice da fare, però che va a caratterizzare la struttura e va a caratterizzare allo stesso tempo il nostro territorio. L'ultimo punto che è importantissimo per quello che riguarda il tema del turismo responsabile è quello che riguarda solo la comunicazione. Sulla comunicazione di spunti ne abbiamo avuti tantissimi, dalle targhette all'interno delle camere dell'hotel, ricordati che sei una struttura che è vicina a un'area marina protetta, difendi l'ambiente, non fare questo, non fare questo, aiutaci a fare questo. Quindi l'idea ne abbiamo avute tante, ma anche la comunicazione intesa come senso stretto, la comunicazione tra di noi, le newsletter che deve mandare l'area marina protetta per ciò che riguarda le iniziative del parco, le newsletter che deve mandare l'area marina protetta ai turisti del territorio per ciò che riguarda le nostre attività, ciò che possono fare le attività per promuovere, per comunicare più velocemente l'attività dell'area marina protetta. Quindi diciamo su questi 10 macro aree abbiamo lavorato. È stata una bella settimana di lavoro. Quello che ci sarà adesso, noi ci chiudiamo in camera caritatis, cominciamo a lavorare su questa sorta di disciplinare. Vediamo qualcuno con l'area marina protetta per renderlo concreto. Una volta che l'avremo reso concreto, lo pubblicheremo manderemo una comunicazione a tutte le strutture che hanno partecipato. Dare suggerimenti, scrivere. Dovete. L'idea è graditissimo. Di fare un tutoraggio continuo, ecco. Non spegnere il tutoraggio, l'idea è questa. Certo. Di mantenerli in vita i due tutor. Prima di ripresentarlo, magari avremo modo di riguardarcelo tra di noi. Dopo, successivamente lo pubblicheremo con un avviso sul portale dell'area marina protetta per cominciare questo percorso tutti insieme. Avete già un'idea, è già nata un'idea dello strumento che verrà utilizzato, internet, non so. Ne abbiamo diverse. Perché è vero che bisogna proprio, per poter noi informare i nostri clienti, sarebbe molto interessante che in futuro, già essendo questo un lavoro basato su una programmazione che è fatta un anno prima per l'anno successivo, bisognerebbe che noi l'anno prima sapessimo l'anno dopo. È una delle cose delle quali parlavamo questa mattina, l'impegno che cercheremo noi. Ci sarà un anno sabbatico, per esempio, dove si farà poco o niente, si farà ciò che insomma è strettamente necessario, ma non è necessariamente importante fare, che devo dire, anche se è importante un concerto. Non so se mi spiego. Sì, come no. È importante, prima di tutto sarebbe importante, Presidente, che la Torre di Cerrano venisse isolata acusticamente dal passaggio del treno. Quello è un discorso che sia il Comune, con la figura adesso rappresentata dal Vice Sindaco Partipiro, che ovviamente la Terra di Cerrano deve prendere in considerazione. Non capisco perché non ci debba essere una barriera contro il passaggio del treno. Pensate che qualche anno fa facevano dei concerti, no, sulla Terra. Concerti, musica da camera, violini e flauto, con l'espresso tre versi della Fiat da San Salvo. È evidente che questo qui insomma diventa davvero controproducente. Le persone, io ho un albergo, conduco un albergo qui a Silvi, le persone che noi abbiamo veramente voluto che vedessero l'alba, il sole, un po' come a Ravello, no? Che fanno quei concerti in attesa che sorga il sole, no, anzi nel caso loro tramonti, che non lo vedono. È bellissima, sono cose meravigliose, serie, che possono essere sviluppate, però davvero questa difesa dal rumore, visto che è preso qui in considerazione il rumore, deve essere immediatamente operativa. C'era già un progetto, poi questa sovrintendenza archeologica monumentale si è bloccato, quindi va ripreso quel concetto. Bisogna riprenderlo. tanto anche la salute dell'orecchia del direttore. Che si era nascosto. No, sì, piano piano era diventato piccolo piccolo. Una parte del suo stipendio va investito in tappi di cera. Piano, no, dai, a parte gli scherzi, però diciamo, per quello che riguarda la comunicazione, penso un impegno che piano piano ci possiamo prendere e cercheremo di migliorare. Lo dicevo prima al presidente dell'associazione delle guide del Cerrano, che ci danno una grande mano, perché sono una grande risorsa per il territorio, perché sono ragazzi che si impegnano e fanno un lavoro durante l'estate straordinario. In questi 7 anni la maggior parte del lavoro all'interno della visita guidata praticamente l'hanno fatto loro, perché il museo era ancora in costruzione, quindi sono stati bravi loro a descrivere, a fare emozionare le persone che c'erano. Cercheremo, è naturale, di fare una comunicazione più veloce, di far uscire più velocemente prima i calendari con l'attività. Cercheremo di distribuirle meglio. Perché noi questo il presidente si impegna in questa cosa. Noi abbiamo detto ordinariamente sono stati così puntuali e precisi. No, ma stai per l'operatore che doveva venire in aula. Chiudo soltanto, mi fermo e poi passo la parola a Diego e Guido. L'idea qual è? Ok, partiamo con questo club di prodotto, nel frattempo stiamo lavorando su qualcosa che è un portale turistico dell'area marina protetta, che è già online, non è ancora indicizzato perché ci stiamo ancora lavorando, si chiama Visit Cerrano. Il lavoro che faremo qual è? Queste prime strutture che ci accompagnano in questo club di qualità, se vogliamo chiamarlo così, cominceremo a dargli una certa visibilità sul nostro portale che stiamo cominciando a far partire. Io l'unica cosa che posso fare è grazie a voi che avete partecipato in questa settimana, siete stati attenti, precisi e puntuali, vivaci, ma nel senso buono. Grazie Fabiano. Allora, prima di passare alla discussione, quindi lasciando la parola a Sebastiano e poi quindi provare a vedere dall'esterno come si può leggere questo percorso, volevo solamente farvi vedere gli impegni che sostanzialmente si sono presi. Abbiamo fatto proprio questo lavoro, come diceva Fabiano, cosa possiamo fare noi strutture, rileggendo quei punti disciplinari, e cosa il parco può fare per noi. Abbiamo ragionato su 3 macro categorie, che sono l'ambiente, quindi tutta una serie di iniziative, quindi azioni finalizzate alla riduzione dell'impatto del turismo sul territorio. Come vedete, magari kit di cortesia bio, quello che diceva prima, no? Iniziare azioni di sensibilizzazione sull'utilizzo degli sprechi della biancheria da bagno, la formazione del personale sulle tematiche ambientali, creare magari già dei primi gruppi di acquisto, no? All'interno di queste strutture, proprio per favorire, diciamo, la messa in opera di queste iniziative, che chiaramente tendono sia al risparmio della singola azienda, ma che poi magari affrontando alcune tematiche hanno necessità di un costo maggiore. Dicevamo anche rispetto all'energia, no? Oggi venivano fuori anche degli esempi, ormai ci sono delle compagnie che offrono energia elettrica, che offrono la possibilità di installare all'interno dei parcheggi delle colonnine elettriche in maniera gratuita, no? Quindi queste sono tutte iniziative alle quali... Anche gratuito. Ci sono alcune. Adesso il mercato si sta evolvendo molto. No, è una logica di... Sì. Comunque è uno dei temi al centro, chiaramente, del dibattito. L'altro esempio, ma solo per darvi degli spunti, anche per capire su quali temi adesso, da oggi in avanti, anche gli operatori si siederanno, è la gestione, quindi iniziative finalizzate alla valorizzazione del territorio e integrazione. Ma ripeto un pochino anche le cose che diceva chiaramente Fabiano, no? L'enogastronomia a chilometro zero, la filiera corta, la formazione del personale anche rispetto alla presentazione del cibo, sposare soprattutto tutte le iniziative che già da alcuni anni, come abbiamo visto anche nell'emergere del corso, le guide facevano ma non venivano valorizzate in maniera adeguata, no? Quindi se il parco, non diciamo come esperienza, no? Esperienza proprio da vivere, valore aggiunto rispetto a una vacanza, l'elemento che può emozionare. E infine il tema della comunicazione, quello che dicevamo proprio, quindi magari a partire da un manuale di immagine coordinata, che poi magari presto, nel momento in cui verranno definite le strutture, l'area marina protetta si doterà, affinché venga usato anche poi in maniera propria, no? Perché nel momento in cui poi si mette la faccia con un brand, le aspettative devono essere rispettate, quindi anche in questa misura va disciplinato. La mobilità se ne è parlato, ripeto, queste sono singole cose, ma adesso sono sono spunti sui quali poi si è lavorato. E a queste si affiancano poi una serie di, un piccolo elenco, diciamo, di volontà di riuscire a partecipare, no? Lo diciamo prima, l'abbiamo visto anche con le esperienze che ci hanno portato i vari relatori, che il parco può diventare per noi la cassa di risonanza per riuscire a tutelare meglio questo territorio rispetto ai nostri interessi specifici, no? Il contratto di fiume, la possibilità di sedersi rispetto a dei luoghi, e quindi riuscire a far sentire la nostra voce, o ad esempio poter accedere a delle progettualità, no? Progetti però sui quali c'è bisogno poi di un impegno concreto, no? Del territorio, adesso gli operatori turistici, in senso allargato dell'intera comunità. Si lavorerà sulla mobilità e così sulle altre cose. Chiudo, lascio la parola a Sebastiano, solo dicendo solamente un ultimo elemento. In questa presentazione, ma quasi volutamente, non si è parlato di prodotto turistico, ma non perché non se ne sia parlato, no? Perché abbiamo analizzato tante volte, abbiamo avuto addirittura un pomeriggio dedicato al cicloturismo, che, no? Quale opportunità migliore può essere una delle declinazioni proprio di motivazione di vacanza. Vi ho parlato di diversificazione del turismo balneare legato, però se lo facciamo in una condizione di avere un sistema territoriale che ragiona in maniera integrata, con una qualità di territorio che sposa tutta una serie di principi, un brand di territorio, quindi questo approccio e questa possibilità di non cadere nel mucchio, nel, come dire così, chiaramente non succede. Abbiamo comunque questo volano di un territorio di qualità che riesce a sostenere dei prodotti che, seppur ormai legati a un concetto di motivazione, così come abbiamo sposato, necessitano ormai di un contesto di pregio, di unità, di qualità rispetto ai temi che abbiamo affrontato. Passo la parola a Sebastiano. Grazie Diego. Quindi, se non ho capito male, avete fatto un lavoro che ha riguardato più il contenitore, che poi sarà, certo, pronto, quindi più un lavoro di metodo e sul contenitore, che poi l'avete modellato in modo tale che può essere pronto a recepire in un secondo momento. Quindi ci sarà occasione allora di creare un asta bis, un corso successivo specifico sul prodotto, che a quel punto appunto troverà un terreno fertile. D'altro canto, io naturalmente prima mi sono dimenticato di citare l'area marina protetta, Leone Cantarini, Fabio Vallarola, Fabiano Aretusi. È vero che noi abbiamo trovato un terreno fertile, un terreno che voi avevate abbondantemente arato, seminato diffusamente, che ci ha, e sul quale siamo intervenuti, trovando appunto una discreta competenza e grande preparazione. Io passerei la parola agli ospiti, a cominciare dal vice sindaco Vito Partipilo, insomma, in un'alternanza tra Roma e Abruzzo. Cominciamo invece dalla parte più locale per sentire un po' le impressioni riguardo al lavoro che è stato fatto. Anche qui il comune di Silvi mi pare di capire che lavora da tempo con l'area marina protetta, e quindi ha sviluppato già una discreta sintonia con questi contenuti, con questi elementi. Prego. Buonasera a tutti, sono Vito Partipilo, vice sindaco della città di Silvi, nonché delegato al turismo dell'amministrazione comunale. Innanzitutto porto i saluti di tutta l'amministrazione. Io mi soffermerei principalmente su tre aspetti che mi hanno colpito, sia per aver preso parte di alcune giornate, soprattutto della prima, del corso che hanno svolto i nostri operatori del settore. Poi partirei dalle testimonianze dei due operatori, che veramente possono essere il miglior spot per il nostro territorio. Veramente sono rimasto colpito e affondato anche da quella che è stata la loro testimonianza vera, viva, sentita, veramente passionale. Soprattutto il fatto di essere riusciti come corso, quindi come area marina protetta e fondamentalmente anche come territorio, a scalfire un po' quella che è la testimonianza di poter vivere in un territorio che ha una particolarità. questa particolarità che diciamo, come tutte le particolarità, viene vista spesso come le anormalità, chiamiamole così, diciamo, siamo alle soglie di giornate particolari, diciamo. Le anormalità spesso nel nostro paese vengono viste come dei limiti, invece sono delle grandissime risorse, e quindi io diciamo, da non ambientalista convinto, nel senso che non mi piace quando ci si etichetta come degli ambientalisti convinti, ma bensì come rispettoso del territorio, perché quando si parla di ambientalismo convinto magari si estremizzano dei concetti che sono in realtà dovrebbero essere dentro di noi, dentro tutti quanti noi. Io dico sempre, lo ripeto, lo ripeterò sempre, a costo di sembrare anche noioso, ma fondamentalmente noi come amministratori abbiamo la più grande mission, che è quella di preservare il territorio delle generazioni future. E quindi poter vivere in un'area marina protetta e far crescere questa consapevolezza, questa concezione al nostro territorio è la mission più grande che noi, come giustamente dicevate prima, essendo diciamo detentori di questo patrimonio del medio Adriatico, dobbiamo diciamo spingere e forzare, e a costo di sembrare noiosi, affinché all'interno del nostro territorio venga presa questa consapevolezza di vivere in un territorio pregiato, di essere fortunati nel vivere in un territorio pregiato. Ringrazio diciamo innanzitutto i relatori, perché probabilmente se sono riusciti poi con la testimonianza delle due diciamo operatrici a farci e a farmi capire l'importanza di questo corso, probabilmente diciamo, il seminato in qualche modo sta raccogliendo i suoi frutti. Notato i 10 punti, sono tutti diciamo aspetti che serviranno al nostro territorio, serviranno alle nostre strutture, che poi sono la base dell'economia della città delle due città, che hanno questa grande fortuna, e soprattutto sono diciamo la base per far sì che il nostro territorio possa identificarsi, come diceva giustamente l'amico Roberto, come una destinazione, perché diciamo oggi Silvi, Pineto, l'Abruzzo, probabilmente ultimamente diciamo un po' diciamo nominato, ma non per fattive e positive diciamo esperienze negli ultimi mesi, ma hanno bisogno di un'identificazione di un territorio. Quindi questo territorio va identificato, e soprattutto con questa peculiarità va perseverato. Quindi questo corso sicuramente di buone pratiche, di promozione, di management è diciamo un inizio, ma vuole essere soprattutto non un seme, ma bensì un germoglio di un qualcosa di più grande che questo territorio può dare all'intera economia delle due città. Io mi fermo qui, perché sicuramente gli interventi successivi saranno molto più qualificanti dal punto di vista tecnico, e ringrazio il presidente, il vicepresidente e il direttore, che hanno in qualche modo anche loro diciamo con questa perseveranza fatto sì che questo corso potesse trasmettere, perché se poi io dico che tutte le cose fatte con passione poi riescono a dare qualcosa in più rispetto alla staticità di quello che solitamente siamo abituati nella routine quotidiana a percorrere. Quindi ringrazio voi, ringrazio poi tutti gli intervenuti, e voglio chiudere con una parola. Oggi l'economia si basa sullo sharing, insomma. La sharing economy, anche nel lavoro che faccio professionalmente, oramai si condivide tutto. Quindi condividere emozioni, condividere territorio, condividere ospitalità è sicuramente l'arma vincente per questo nostro territorio, che ha bisogno di turismo, di qualità e di condivisione. Grazie. Grazie. Hai detto molto bene, difendere il territorio anche per i nostri figli, per sì. Il futuro, per sì. Consegnare qualcosa di veramente notevole, che poi in realtà è solo mantenere quello che abbiamo, sì. Proteggerlo, area marina protetta. Ma io penso, questo è un invito che mi sento di fare rappresentando, credo, anche i miei colleghi albergatori o campeggiatori, eccetera, è molto importante che si prenda questa iniziativa. Le scuole elementari devono essere coinvolte, ma in maniera pesante, perché noi stessi dobbiamo prendere coscienza e soprattutto essere orgogliosi di appartenere a questo territorio. Molto spesso noi sentiamo dire che è bello che è qui, pensa, peccato che sia Silvi, ma guardate, non c'è cosa che fa il pensare di più, come peccato che sia Silvi, oppure peccato che è una cosa che funzioni, come mai, ma allora io dico, no, dico, l'unica possibilità che abbiamo è educare, e questo è il futuro nostro, perché noi adesso ci diamo da fare in maniera forte, ma vi chiedo proprio, io lo chiedo, sono sicuro a nome di tutti i colleghi che fanno ospitalità qua e, che, e quelli che vivono, insomma, di quello che, di coloro che ci vengono a visitare e a trovare, invito proprio le due amministrazioni pubbliche, Silvi e Pineto, di essere veramente presenti nelle scuole elementari. I bambini vanno educati, i nostri figli vanno educati rispondo ad amare la loro terra e ad essere orgogliosi di appartenere a questa. Questo vuol dire prima che tu lasciassi il tuo posto. Abbiamo fatto il non martedì, giorno del 21 aprile, in occasione, abbiamo donato, infatti, come scuola, come amministrazione, abbiamo insieme ai ragazzi fatto una giornata dell'albero, abbiamo donato una piantagione di frutto, soprattutto di frutto dei ciliegi e dei mandorli a tutte le scuole, e poi insieme a loro, insieme ad un agronomo, abbiamo spiegato l'importanza anche della tipologia di pianta, abbiamo piantato anche dei lecci che sono dei sempreverdi, e quindi diciamo, stiamo... Questa è un'educazione generica? No, dico... Ascolta... Guardi, ci sarà occasione, facciamo un dibattito alla fine, così... Tutto qui. Grazie Vice Sindaco. Stefano Landi. Stefano è un veterano dei corsi Asta, direi, se non ti dispiace, nel senso che li ha seguiti tutti sin dall'inizio, dal primo corso che abbiamo fatto alle Cinque Terre ormai 3 o 4 anni fa. Vi dicevo, questo ping pong che adesso ci aspetta tra Abruzzo e la capitale. Stefano è un economista, esperto di turismo ambientale. Anche a te le considerazioni su quello che hai visto di questo corso, ma anche e soprattutto delle suggestioni su quelle che sono le linee di tendenza, le prospettive del mercato turistico in un momento obiettivamente complicato. Tu c'hai qui davanti degli operatori economici, degli operatori nel settore turistico, molti albergatori, titolari di stabilimenti balneari e quant'altro, l'imprenditore per natura è ottimista, certo. Che cosa possiamo raccontargli? Grazie Sebastiano, io sono un veterano, come vedete bene, non solo dei corsi Asta ma di molte altre cose, e vorrei cominciare raccontandovi questa telefonata che ho appena ricevuto. La moglie di Diego Albanese, che si chiama Silvia, ha detto che oramai può anche restare qua, quindi il tutor ve lo tenete, se preferisci Silvia a Silvia sono affari tuoi, ha detto lui. Vedete voi cosa si può dire. Allora, a proposito di bambini, io vorrei cominciare questi 10 ragionamenti, non di più, che faccio con voi, d'altra parte anche voi avete proposto un decalogo, con una considerazione, se volete, grave. Non si può più nascere bambini, nel senso che, non che non si nasca bambini, si nasce bambini, ma la precocità dell'evoluzione è tale per cui di certo bisogna guardare il mondo con gli occhi dei bambini, ma sapendo che i bambini già sono molto più avanti del nostro sguardo. E comunque, secondo me, bisogna anche essere pronti ad acquisire più in fretta le esperienze degli altri, cosa che voi avete fatto e dimostrato di aver fatto benissimo in questo corso, perché se si riparte sempre da zero non si arriva mai. E questa è la prima valutazione che farei con voi. Essere ingenui, ma essere molto molto assorbenti e ricettivi, e mi pare che lo stiate cominciando a fare ben benino. Secondo tema è quello della sostenibilità. Adesso riprendo le parole chiave che ho sentito, più o meno nell'ordine in cui le ho sentite. Il discorso della sostenibilità sta nelle parole del vice sindaco, cioè è molto semplicemente questo: che cos'è che noi prevediamo per il futuro? E anche il discorso della responsabilità è fatto così. Se vogliamo guardarla ben benino, la parola responsabilità vuol dire etimologicamente porsi il problema delle conseguenze dei propri atti. Questo è la la responsabilità. E la sostenibilità vuol dire pensare a ciò che ci sarà domani e a pensare che non deve essere peggiore di quello che c'è oggi. È un po' un pezzo la sostenibilità del concetto di responsabilità. In termini economici, visto che sono un economista e Sebastiano me lo ricorda sempre, sostenibilità vuol dire essenzialmente pensare al tempo lungo e non pensare all'affare che concludi oggi, o non pensare solo all'affare che concludi oggi, perché l'affare che concludi oggi sì, ti serve per campare adesso, ma in realtà se ci pensi bene l'affare che concludi oggi non deve precluderti gli affari che devi concludere domani. Il tempo lungo, lo ricordo perché è un tema che a me sta molto caro, è quello che va dai 5 anni in avanti. Non è la congiuntura, non è quello che succede oggi. Quello che si considera la congiuntura più o meno tra i 6 mesi e un anno, quello che produce risultati da qui a un anno. Poi c'è un tempo intermedio, o medio periodo in economia, e poi c'è il tempo lungo. Ragionare di sostenibilità anche nel turismo vuol dire pensare cosa succede da 5 anni in avanti. E quindi lavorare adesso perché quelle cose possano succedere. Da questo punto di vista ho cominciato con le negazioni. Si dice che nella comunicazione non bisognerebbe mai usare il non, invece ho cominciato e continuo: non si può più essere insostenibili. Permettetemi, sono 2 negazioni, e lo so, bisogna essere non sostenibili per forza. Nessuno ti perdona gli errori che fai adesso, nessuno ti perdona e ti perdonerà in particolare in futuro che tu non ti sei posto il problema di quello che sarebbe successo. Sul mercato turistico è terribile questa cosa qua. E d'altra parte, faccio una parentesi perché è un passaggio di cui vado particolarmente orgoglioso, il tema sostenibilità è la chiave centrale del piano di sviluppo turistico dell'Italia 2017-2022, quindi a 5 anni, e in questo piano c'è anche scritta una cosa rivoluzionaria per il nostro paese, ed è il primo che non tutti i territori e non tutti i prodotti sono uguali. Ci sono i prodotti maturi che vanno affrontati perché sono in crisi, e ce ne sono tanti in Italia, non mi fate dire quali sono. E d'altra parte ci sono dei prodotti nuovi o nascenti che vanno affrontati come tali, perché il nostro paese non può pensare di continuare a vivere del solo turismo affermato che c'è adesso, perché tutti i prodotti sono destinati ad avere un loro ciclo di vita e perché bisogna pensare a nuovi territori e a nuove proposte da fare sul mercato. Non si cresce in termini di numeri continuando a concentrare il turismo. Ho fatto solo un passaggio, il piano del turismo ci porterebbe molto lontano, grazie per avermi tolto il faro, ma avrei confessato lo stesso. E non si può, ed è il terzo tema su cui vorrei ragionare con voi, permettetemi di dire che, avete trattato il concetto di bellezza, non ci si può più permettere di essere brutti. Se uno si vuole proporre sul mercato, qualunque mercato, in particolare quello turistico, pensate se può fare della bruttezza la propria bandiera. O si fa il festival dei brutti, ma questa è una cosa paradossale, oppure si cerca di valorizzare le proprie qualità. Non ci si può più permettere di trascurare la propria bellezza, bisogna coltivarla. E poi tra un attimo vediamo anche di alcune fantasie che mi sono venute sentendovi parlare. Quarto concetto, avete toccato, per quanto ovviamente con una certa fretta dovuta all'occasione, e la parola qualità, di cui poi Susanna è veramente maestra e ne parlerà meglio lei. Io mi permetto solo di fare 2 considerazioni sulla qualità, che è fatta secondo me di rispondenza e di sorpresa. Rispondenza vuol dire dare le prestazioni che si sono promesse. E sono ineludibili. Se voi avete pensato mai di andare in un posto che non rispetta ciò che vi ha dichiarato, chiaramente ne sareste rimasti delusi. La seconda cosa è dare sorpresa e quindi generare emozioni. Ognuno deve generare le sue emozioni, è il discorso della bruttezza programmatica che non funziona mai nella qualità. E da questo punto di vista, e faccio un esempio e chiudo questo quarto tema, non si può più pensare, è assurdo pensare che è il prezzo che comanda sul mercato. Fatemelo dire, non funziona, non può funzionare. Se il prezzo fosse quello che, adesso ve lo dico perché c'è un'esperienza in corso particolarmente stimolante nella sua drammaticità, se il prezzo dominasse sul mercato, la Tunisia sarebbe piena di turisti. E invece la Tunisia è vuota e ha 800.000 posti letto vuoti da riempire. E adesso, non sapendo come fare, per vari motivi, chiede ad esempio a noi, all'Associazione Turismo Responsabile, eccetera, come si fa a sviluppare turismi alternativi. Io ho sentito il banchiere principale della Tunisia dire queste cose: noi di questi posti letto ne salveremo un terzo dovremo abbatterli, un terzo le dovremo trasformare in cliniche di lusso per i ricchi vecchi del nord Europa. Capito come stiamo messi quando si è scelta la logica del basso prezzo? Non vi fate fregare mai più, semmai lo avete fatto in passato, da questa logica, perché porta alla rovina. Quinto ragionamento che farei con voi. Avete parlato di biodiversità. Allora, io ve la giro questa cosa, non si può pensare mai più di essere biouguali. Non si può pensare che l'identità viene annullata da una logica di omogenizzazione, di omologazione. Io sull'elogio delle diversità, sempre del vice sindaco Partipilo, sono assolutamente d'accordo. Le diversità sono quelle che fanno l'identità. L'identità che cos'è? È il confronto tra quello che noi siamo e ci sentiamo di essere e quello che gli altri pensano di noi e pensano che noi siamo. Perché non c'è una sola identità, non siamo solo noi l'identità. Siamo noi e quello che ci vedono gli altri. Allora, questa cosa qui dell'identità è determinante se noi pensiamo, la parola, permettetemi, la parola identità ha un doppio senso, noi la usiamo sempre in uno. Identità vuol dire essere perfettamente uguale a un'altra cosa. Questa è la parte dell'identità che non possiamo più permetterci di fare. Se noi pensiamo che un altro sia perfetto e voglio essere come lui, abbiamo sbagliato tutto. Perfetti siamo noi se riusciamo a essere noi stessi. D'altra parte è il contrario esatto dell'omologazione, quindi non si può più essere omologati, bisogna essere diversi in qualche cosa. Ad esempio, l'esempio che faceva prima l'albergatore è fondamentale. Se noi non abbiamo i nostri prodotti nei nostri punti di vendita, siamo omologati, sono i prodotti che sono dappertutto. Ma guardate che non è che lo scoprono solo le località turistiche, lo scoprono anche i supermercati o anche gli autogrill che fanno gli angoli regionali dappertutto. Perché? Perché deve essere stimolante interessante, gratificante, emozionante persino fermarsi in un autogrill. Sono verso la fine, non vi preoccupate. Altro passaggio. Da questo punto di vista credo che sia giusto, e le esperienze che avete visto in questa settimana lo confermano, imparare anche dagli altri, non tanto per fare le stesse cose in modo omologante, ma per portarsele in casa personalizzandole. E qui credo che avete cominciato bene ad affrontare il tema di come ci si può cambiare anche attraverso i 10 punti del vostro disciplinare. Io mi permetto sempre di ribaltare la cosa. Noi usiamo spesso questi termini. Guardate le cose come se foste un ospite, non guardatele come se siete voi, come se siete voi a guardarle. Se voi siete capaci di guardare le cose con gli occhi del turista, con gli occhi del viaggiatore, del passeggero, vedete che le cose possono migliorare e gli si può dare una spinta, un modo per essere voi stessi. Pensate quando voi andate in un luogo e trovate, ad esempio, dei colori coordinati tra di loro, delle insegne coordinate tra di loro, delle luci, delle denominazioni. Sto parlando di quattro cose, quattro strumenti addirittura urbanistici che si chiamano piano dei colori, piano delle insegne, piano delle luci, piano delle denominazioni. Bravo. Li hanno fatti, ci sono luoghi in questo mondo, in questo paese, addirittura molto vicini, che hanno proprio fatto questa cosa scientemente. E se voi percorrete a piedi il centro di Roma, faccio un esempio, mondo voi non potete pensare, non dovete pensare che è tutto così bello per caso. Il piano dei colori del centro di Roma è stato varato, approvato e finanziato con le leggi del Giubileo del 2000. Il centro di Roma ha quei colori lì perché l'hanno deciso. Se no avrebbe avuto degli altri colori. Se le insegne sono fatte in quel modo è perché è stato deciso, eccetera eccetera. Allora pensiate che la bellezza, per questo dico non si può più, non ci si può più permettere di essere brutti, la bellezza può essere coltivata anche partendo da quello che uno è: colori, insegne, luci. Ci sono dei territori ad esempio che hanno vietato le luci notturne perché vogliono affermare la loro ruralità. Ci sono dei territori che hanno vietato le denominazioni, ad esempio delle strade, incoerenti. Che senso c'ha a prendere una strada che si è sempre chiamata, che so io, via, al paese di mia moglie c'è una strada che si chiama Via delle Vacche, perché lì si dice così, si chiama Via delle Vacche. E lì infatti passano le vacche nella transumanza. Se tu lo chiamassi via John Fitzgerald Kennedy avresti stravolto le cose, per carità, grande onore a John Fitzgerald Kennedy, ma quella è Via delle Vacche e fa parte della tua identità e dell'identità di quel luogo. Penultimo punto, mi è piaciuta molto la parola sogno, non perché mi piace in assoluto, è bello sognare, ma perché se voi riuscite a essere una comunità sognante in questa direzione e se riuscite a non avere, a fare più a meno di sognare, probabilmente andate in una direzione molto bella, in una direzione che non solo piacerà a voi e alla vostra identità, ma piacerà soprattutto ai vostri ospiti, che è poi l'obiettivo che abbiamo tutti. Ultima battuta. Pensate che voi potete, così come in Trentino si sono inventati i suoni delle Dolomiti, che adesso si chiama i suoni e le albe delle Dolomiti, voi avete una cosa potentissima che si chiamano le albe sul mare. Lo dico per scherzare, ma perché ricordo uno dei più bei film di Nanni Moretti che si chiamava Ecce Bombo, dove i ragazzi di Roma andavano a vedere l'alba dove non sarebbe mai arrivata. Grazie. Grazie Stefano. Intanto ci ha raggiunto Linda Di Francesco, che è consigliere provinciale delegata all'ambiente. La saluto e se vuole ci sarà occasione per un saluto, un intervento come ritiene. Intanto chiamerei Peppe Di Marco, presidente della Lega Ambiente Abruzzo. La Lega Ambiente ha collaborato a questo corso, anzi uno degli intervenuti, Giuliano Di Gaetano, gestisce un centro di educazione ambientale per conto della Lega Ambiente. Con Peppe io vorrei portare ovviamente a problematiche più abruzzesi il discorso. In particolare in questi giorni stiamo incontrando il vicepresidente della regione, col quale vi ho accennato anche negli incontri che abbiamo fatto nei giorni precedenti. Stiamo ragionando della risposta che questo territorio può dare alla drammatica crisi che si è aperta con la vicenda del terremoto e che soprattutto al settore turistico sta portando danni molto grossi, oltre naturalmente a quelli che sono i danni più importanti per quanto riguarda i lutti e le sofferenze della popolazione. Però diciamo, io ho visto anche nel lavoro che abbiamo fatto in questa settimana che ci sono delle realtà molto molto vivaci. Abbiamo visto con Guido Cavanna, a proposito del lavoro che alcuni comprensori, penso all'area di Guardia Grele, penso all'area di Campo Felice, stanno facendo proprio per questi nuovi turismi che stanno crescendo e si stanno sviluppando, dei turismi che hanno a che fare molto con lo sport, con la vita all'aria aperta, turismi attivi sui quali appunto con Peppe stiamo ragionando proprio in questi giorni. Sì, stai in piedi pure te, mi alza io. No, mi metto qua, tranquillo. Stai comodo. Grazie per l'invito a questa giornata di chiusura. Io mi scuso con il Parco del Cerrano, perché loro hanno fortemente voluto questa iniziativa e io purtroppo, a causa di impegni associativi, non sono riuscito a prendere parte a questo corso. Cosa che invece mi è riuscita nella precedente edizione che abbiamo sviluppato insieme alla Camera di Commercio di Chieti sul cicloturismo. Ci tenevo ad essere qui soprattutto per vivere di persona alcuni confronti anche con gli operatori turistici del territorio, perché un po' come i turisti che sono alla ricerca di esperienze e quindi di emozioni dirette, condividere dei percorsi con voi significa anche maturare meglio la nostra azione da associazione ambientalista. E non è un caso, oggi ci sono due accadimenti importanti. Uno di ieri: finalmente siamo riusciti a bloccare la struttura di Megalo 2 a Pescara, che è una struttura per il momento siamo riusciti a convincere il comitato VIA che è una struttura insostenibile per il territorio, visto che prima si faceva riferimento a insostenibilità e bruttezza. Ma c'è stato anche un articolo, se non sbaglio di oggi, del Sole 24 Ore, che parlava del ricorso che sta facendo la Roccoper sulla vertenza Ombrina Mare. Penso che tutti ne siete a conoscenza, anche perché anche su questo territorio abbiamo seguito vertenze dal punto di vista del tema della petrolizzazione e del gas. In particolare quell'articolo chiudeva con una riflessione un po' polemica, come per dire: la Roccoper ricorre sul diritto internazionale chiedendo circa 2 milioni di euro e dice il governo italiano si è lasciato un po' abbindolare dai movimenti ambientalisti in funzione di un referendum che è stato un buco nell'acqua, perché mi riferisco a quello del 17 aprile, ovviamente non confondiamo le cose, che ha raggiunto solo il 31%, e di uno Stato che si è perso, tra virgolette, le royalty di quell'intervento. Alla luce del percorso che è maturato questi giorni, io dico: quanto sarebbe costato all'Abruzzo un impianto di quella a dimensione a ridosso della costa di Trabocchi e in prossimità del Parco del Cerrano? Cioè 2 milioni di euro sono, se andiamo a vedere, le due azioni su Open Day, il Summer e il Winter, stanno intorno a quella cifra. Quindi, come dire, la bellezza ha un valore non solo da un punto di vista etico o di quelle che possono essere anche le posizioni più estremiste della difesa di un territorio che alcune realtà ambientaliste a volte raggiungono, però non è la sindrome di NIMBY, no? Non facciamo questo sul nostro territorio perché non ci piace, perché non lo vogliamo. E nelle battaglie che la Lega Ambiente ha fatto in Abruzzo, ma anche con altre associazioni, non a caso ieri mi confrontavo in un pranzo informale proprio con Luciano Di Tizio del WWF su come riflettere sul percorso di quelle che sono le criticità a cui prima Sebastiano faceva riferimento, c'è un'idea di sviluppo diverso dietro le nostre battaglie, c'è un'alternativa. Il lavoro svolto qui e dalla sintesi che io ho potuto ascoltare oggi c'è quella presa di coscienza che forse fino a qualche tempo fa mancava, nonostante che nelle nostre battaglie, io ricordo la manifestazione dei 40.000 di Pescara, dei 60.000 di Lanciano, non eravamo certo solo ambientalisti, c'erano anche operatori economici al nostro fianco, però forse non erano ancora maturi alcuni passaggi. E non è un caso che oggi Lolli ha chiesto una mano anche alle associazioni ambientaliste, anche alla Lega Ambiente e anche a Federparchi su come reimpostare la strategia turistica regionale. Quindi vuol dire che c'è un incontro di mondi che parlano di sostenibilità, che parlano un linguaggio che ha delle cadute comuni. E per esempio quest'anno il Treno Verde l'abbiamo impostato proprio sul concetto dell'economia circolare. Ci sono i bandi UIA, se non sbaglio, che coinvolgono diverse municipalità. Pescara ci vuole coinvolgere su un discorso legato alla mobilità sostenibile, che ovviamente non è solo una questione legata al tema della bicicletta, ma è qualcosa di più ampio, un ripensamento e uno studio, come diceva giustamente Landi prima, anche sulla realtà di come si può esprimere la bellezza di un territorio. E per esempio l'Aquila si sta interrogando su un processo che non è riuscito a chiudere in passato. Dopo il grave sisma del 2009 non sono mai riusciti a mettere in campo un circuito ottimale nella gestione delle macerie. Questo lo dico perché in quelle slide, in quei punti, ci sono tante di quelle battaglie, di quei contenuti che noi come Lega Ambiente e come associazione ambientalista in genere abbiamo messo in campo in Abruzzo e in Italia. Il problema oggi è più semplice, di più semplice soluzione, perché riusciamo a costruire delle alleanze. Anche questo corso, come è stato il corso di Chieti fatto con la Camera di Commercio, per noi diventa un punto di caduta, di esperienze, di condivisione di un percorso che rafforza quella strategia che noi cerchiamo di mettere in campo anche nelle nostre vertenze territoriali. Perché anche nella battaglia di Megalò non eravamo soli, anche se è paradossale pensare che Megalò 1, che è la prima struttura, i primi 40 ettari, noi l'abbiamo indicato a livello nazionale come fra i 10 obbrobi da delocalizzare, quindi da togliere proprio da quel territorio. Addirittura c'è una riflessione territoriale che puntava a realizzarne un doppione, nonostante avesse contro realtà sociali, non solo ambientaliste, ma appunto Confcommercio, Confesercenti, quindi anche centri di interesse territoriale. Allora, qual è l'anello che manca in questo intento di seguire ciò che oggi l'indirizzo a livello mondiale ci dà sull'economia della bellezza, del riciclo, su quella volontà di uscire fuori dall'insostenibilità che è stato sancito anche da un appuntamento particolare. Tutti ricordiamo la COP21 di Parigi, dove finalmente 194 paesi hanno capito che l'ambiente è qualcosa che va posto al centro anche dello sviluppo economico, proprio perché forse quello che prima aveva una sua illimitatezza, no? Io ricordo anche quando ero ragazzino, io andavo in spiaggia, il mare era visto come una fonte di bellezza e ricchezza infinita. Oggi sotto tutta una serie di aspetti tutto questo in parte non esiste più. Abbiamo presentato tempo addietro in sede proprio ONU, il primo studio che come Lega Ambiente abbiamo fatto sui rifiuti a mare, in modo particolare sulle microplastiche. Quindi c'è tutto un percorso che ormai non può essere più diciamo vissuto al punto zero. Dobbiamo scegliere, e questa scelta cade sulle spalle di tutti, su noi ambientalisti, sui cittadini in genere, il discorso della partecipazione, sugli amministratori che vedo qui presenti, ma anche sugli operatori, perché spesso noi ci lamentiamo di una cattiva politica, però dobbiamo anche essere un po' concordi in quello che chiediamo alla politica. Per esempio su Pescara, così cito una realtà un po' distante e chiudo, ci siamo troppo spesso trovati in contrasto con l'associazione degli albergatori, balneatori, sul tema del piano spiagge, perché si rincorreva il mezzo metro in più, l'ombrellone in più, la cubatura in più, e oggi paradossalmente, dopo 2 anni, proprio su Pescara abbiamo avuto il tracollo più alto sulla balneabilità delle acque, perché c'è stato, diciamo, quell'incidente, quella rottura che giustamente mette in difficoltà anche noi da un certo punto di vista, perché noi abbiamo una campagna importante che è Goletta Verde, e ogni anno famiglie giustamente ci chiamano per sapere dove poter portare i propri bambini, e noi ci dobbiamo assumere una doppia responsabilità. Quella da un lato di consigliarli in modo da non tradire la salute pubblica loro, e dall'altro di non arrecare danno a chi effettivamente su quel territorio ci vive ed esercita una attività economica. E quindi penso, questo nel dibattito a cui faceva riferimento prima Sebastiano, noi abbiamo spinto molto sull'idea di avviare realtà formative di questo tipo e che avessero una portata trasversale, perché noi abbiamo in questo particolare momento storico, e lo enfatizzo proprio volontariamente, dobbiamo assumere l'impegno di cambiare le cose, un po' perché lo dobbiamo fare per forza e un po' perché ci troviamo a condividere punti di caduta comuni. E quindi dietro questa responsabilità congiunta io mi auguro che da questo corso, dalla positività che ne viene fuori, riusciamo, insieme con l'esperienza fatta anche sulla parte sud della costa, di tirare giù idee e proposte che possono affiancare poi la stessa programmazione regionale, che ci dà delle opportunità anche da un punto di vista economico, per mettere a frutto quel cambiamento di cui oggi noi abbiamo bisogno. Me ne abbiamo bisogno come Abruzzo, non solo per rispondere a quelle criticità che abbiamo vissuto quest'inverno con la gestione anche, diciamo, dell'aspetto montano, ma soprattutto per affrontare l'emergenza che vivremo ancora quest'estate, perché il tema della balneabilità delle nostre acque purtroppo è ancora un tema delicato da affrontare, ed è paradossale che una regione che abbia stanziato già 350 milioni di euro su Pescara si rincorra ancora su dove localizzare o meno un depuratore. Quindi dobbiamo alzare un po' il tiro, l'attenzione, perché giustamente da ambientalista io dico il nostro primo obiettivo è la tutela e la conservazione della biodiversità, perché che questo poi sia attrattore e sia anche oggi considerato un punto di ricchezza per chi fa attività economica sul territorio è bene, però questo secondo livello deve essere agganciato al nostro primo livello di riflessione per fare un lavoro di squadra e ovviamente garantire la vivibilità di tutta questa regione. Grazie. Grazie. Susanna, eccola, Susanna Menzitieri, sempre della Luis Pino Carli di Roma, per continuare in questo ping pong Abruzzo Capitale. È un punto di osservazione privilegiato di quello che accade, di quello che si muove all'interno del settore turistico. Tu sei il responsabile di un corso alla Luis Guido Carli che sforna studenti laureati esperti nel settore turistico, quindi sforna qualità, perché questo settore evidentemente ha bisogno di qualità. Peppe Di Marco prima diceva che non lo so se è una sensazione che abbiamo noi ambientalisti, quella di essere sempre all'interno di un processo di svolta epocale anche nel settore del turismo, che ci sia sempre un cambiamento epocale in atto. È una sensazione nostra o anche nel mondo del turismo si sta assistendo a qualcosa del genere? Vai. Intanto buonasera a tutti, ma penso non ci sia neanche bisogno di microfono, mi sentite lo stesso? Penso che sì, preferisco, io non mi microfono mai se posso. Come diceva Sebastiano, sono 14 anni che seguo questo master, quindi mi occupo di allevare talenti che dovrebbero aiutare il nostro sistema turistico a crescere, a migliorare e quindi a migliorare il discorso della qualità. Indubbiamente non solo da 14 anni, ma direi appunto sì, una ventina d'anni in cui il turismo ha preso un abbrivio velocissimo, il cambiamento è costante. Noi infatti siamo sempre alla ricerca anno dopo anno, e Stefano lo sa perché è anche lui nella squadra, no, ma poi è nella squadra di docenti. Ogni anno noi cerchiamo di modificare per aiutare poi i nostri studenti a diventare dei bravi manager aggiornati, perché le aziende poi li devono prendere e prima in stage e poi magari assumere, e questo è uno sforzo costante. Indubbiamente quindi c'è questo continuo cambiamento e c'è una crescita sempre superiore del livello di ciò che il turista si aspetta, l'ospite, chiamiamolo ospite. Sentivo parlare di qualità di sistema sul territorio, è così, cioè non basta più un pezzo, quindi non basta più che ci sia l'albergo di qualità piuttosto che alcune condizioni, alcuni pezzi, segmenti dell'offerta di qualità, c'è necessità che sia un sistema globale, perché l'esperienza del turista, dell'ospite è globale. Non parliamo neanche più di prodotto, appunto parliamo di esperienza. Il visitatore, l'ospite, ha bisogno di emozionarsi, e questa emozione avviene se vive un passaggio costante di cose che rispondono a ciò che si aspettava. Non è facile il famoso wow di sorpresa, però se ci si impegna costantemente si può raggiungere. È chiaro che noi non possiamo più pensare agli standard banali, perché lo standard è il QB, come si dice, il quanto basta, il livello minimo, poi bisogna andare oltre. Il QB serve per imparare delle regole, per darsi una struttura di base solida e comune. Parlavate di rete, di network, altra parola fondamentale, non si è più soli, cioè bisogna stare insieme per fare massa critica, per trasferire le buone pratiche, per imparare a crescere insieme e condividere, no? Questo ci rende anche un po' più capaci di affrontare i cambiamenti. Noi siamo un popolo di individualisti, di operatori che sono chiusi nel loro guscetto. Viceversa, forse bisogna imparare questo nuovo modo di rapportarsi, anche perché il valutatore terribile è l'ospite, no? È lui che sgama tutte le cose che non vanno bene e che poi ci distrugge, perché il racconto, come può essere un racconto positivo che crea passaparola e che alimenta il nostro brand, il brand appunto positivo, così lo può demolire. E non è facile essere capaci di essere distinguibili da parte del mercato, di essere ricercati, quindi bisogna veramente stare appresso a tutto per poter dare quello che si aspetta un turista, un visitatore abituato, ormai smaliziato, che conosce ciò che ci si deve assolutamente aspettare, lo standard minimo, quello che può chiedere, e quindi la qualità che esplicita voglio questo, e poi quello che va oltre, appunto, e che lo sorprende. Si parla tanto di storytelling, no? Lo storytelling che cos'è, se non altro il fatto che i nostri ospiti raccontano l'esperienza, e questa è da un lato la migliore pubblicità che possiamo avere tramite i social. Noi sappiamo che tra poco ci sarà una funzione di Google per cui si condividerà la posizione, questo diventa una delle persone possono condividere dove sono. Questo diventerà un ulteriore strumento di marketing, positivo o negativo, perché purtroppo così funziona, per i turisti che si spostano, che si muovono e che quindi fanno appunto un passaparola. Esatto, esatto, condividiamo, vieni anche tu, vieni anche tu, perché poi funziona anche questo, lo sappiamo benissimo, il social ha questo di base e senza social ormai non si vive più. Non c'è niente da fare. Il discorso di promuoversi, di comunicare, non può non prevedere lo strumento web digitale, cioè siamo ormai tutti digitali, quindi le imprese non possono che essere anche loro affacciate, anche per essere più competitive e visibile più lontano possibile. Che altro volevo... sì, ho parlato degli standard. La qualità è una cosa molto complessa, l'avrete sicuramente vista attraverso Diego, e quindi che vi ha dato dei cenni, avete anche probabilmente vi siete resi conto di come non sia così facile poi implementarla, però è uno sforzo costante che dà dei risultati straordinari e che è l'unica strada, perché come diceva Stefano prima, oggi un turismo che non sia sostenibile, e sostenibile significa anche di qualità, non è più possibile. Cioè un turismo che non sia, che non si ponga questo obiettivo, è fuori mercato. Oggi dobbiamo per forza parlare di turismo sostenibile e di turismo di qualità, perché sennò è meglio andiamo tutti a casa, perché non c'è spazio per un turismo che non si ponga questi obiettivi. Sono strettamente connessi, perché la prima condizione è che l'ambiente dove si svolga il turismo sia è la sua prima ricchezza. La sua prima ricchezza è la cosa su cui si fonda ed è l'elemento che poi gli consente di anche rinnovarsi nel tempo. Per il discorso che faceva prima Stefano, il prodotto non è eterno. Nasce, si sviluppa, se tutto va bene, ha un periodo di maturità, poi cala. A quel punto, se tu non sei capace di rinnovarti, sei fuori. E questo lo fai se riesci a conservare l'ambiente, se utilizzi tutte le potenzialità nel modo migliore del tuo ambiente, dell'ambiente conservato da tutti coloro che su quel territorio lavorano e operano, anche i cittadini ovviamente, perché poi è la collaborazione di tutti coloro che si trovano su quel territorio, per cui chi lo abita, gli operatori, le imprese, i soggetti pubblici, i turisti, i cittadini. È un lavoro comune, e un turismo di qualità fa turisti di qualità e un territorio di qualità. Penso di aver detto quello. Bene, grazie a Susanna Mensitieri. Beh, io a questo punto diciamo tornerei, sì, in Abruzzo con Giovanni, che è di Francesco. Dio. Siete tutti libero qui. Linda Di Francesco, consigliere provinciale delegata alle questioni ambientali per conto della provincia di Teramo. Prego. Grazie. Io intervento breve, un saluto, visto che comunque presente non è potuto intervenire in quanto impegnato in altra sede in questo momento. E innanzitutto saluto tutti e volevo fare i complimenti per l'idea appunto di aver organizzato questo corso, che penso che sicuramente è una cosa importante. Oggi il turismo, purtroppo per fortuna, diciamo, non è più quello che poteva essere fatto 30-40 anni fa, assolutamente. Una volta era diverso, la gente si muoveva in maniera diversa, anche molto meno, quindi era anche più facile accontentare comunque una fascia molto limitata di persone che poteva anche permettersi di andare in giro. Oggi con 30 euro prendi un aereo, vai a Barcellona, vai un po' ovunque, quindi hai anche un discorso e un impatto praticamente molto diverso, perché l'utente oggi può muoversi ovunque, quindi a scelta, e si muovono, cioè diciamo, tutte un po' le fasce sociali, mentre prima era un po' una riserva soltanto a persone che avevano anche un certo, diciamo, una certa possibilità economica. Oggi dal ragazzo di 16-17 anni, diciamo, all'operaio, al dipendente, alla professionista, prende parte e va in giro. Quindi è evidente che non è più sufficiente aprire l'albergo e dire venite qua, non è più sufficiente dire abbiamo il mare, venite qua, perché l'albergo, il mare e tante altre cose ce l'hanno in tanti altri spazi, in tanti altri posti e ci si può arrivare molto facilmente. Anzi, forse oggi qui nel nostro territorio è anche più difficile fare turismo, perché probabilmente diciamo che anche quello che è stata anche un pochettino una cementificazione selvaggia, un discorso di poca attenzione a quello che è stato l'ambiente, perché chiaramente negli anni 60 e 70 in pieno boom, quindi ci si è trovati un attimino senza strumenti urbanistici eccetera, si è fatto un po' quel che si voleva. E oggi certamente ci troviamo rispetto ad altre posizioni, ad altre situazioni, in una situazione sicuramente più difficile, perché il nostro territorio è fortemente compromesso, quindi bisogna fare turismo con il territorio che abbiamo. Quindi è importante sicuramente che ci siano corsi di questo genere, perché la professionalità è fondamentale. È fondamentale per poter rilanciare un turismo in una regione, peraltro del nostro territorio, che adesso ci vuole anche un po' di essere un po' un mago, perché con tutto quello che è successo, diciamo che già mi ricordo nel 2009, con il terremoto del 2009, ricordo amici che già stavano magari a Trento, insomma, fuori a lei, mi chiamavo per dire oddio ma che possiamo immaginare, cioè, perché non immaginavo, cioè l'Aquila nonostante stesse a 200 km già pensavano, immaginavano che praticamente le macerie ritrovarle anche qua, quindi chiaramente già l'impatto adesso con la neve, con le slavine, con tutto quello che poi è stata la risonanza mediatica dovuta anche purtroppo ai decessi, comunque alle tragedie, quindi sicuramente questo non favorirà quello che è sicuramente il turismo, non solo per quest'anno, ma sicuramente per i prossimi anni. Considerato anche quello che giustamente stava dicendo, anche in relazione alla qualità delle acque, che anche la risonanza che ha avuto tutto il discorso di Pescara dall'anno scorso a quest'anno, poi chiaramente il turista non sta a guardare il mare di Pescara, il mare di Silvio, il mare di Pineto, cioè è chiaro il mare dell'Adriatico, dell'Abruzzo, quindi è normale che a questo punto prende e va in un altro posto, cioè va laddove, va in Sardegna, va in Sicilia, va in Puglia, va giustamente laddove magari, non dico che le acque siano al meglio, però sicuramente c'è meno risonanza e c'è stata meno quella che è stata sicuramente la pubblicità negativa che da anni sicuramente grava sul nostro territorio, anche perché spesso purtroppo si fa una politica sbagliata, che è la politica, cioè è giusta l'informazione, ci mancherebbe, perché l'utente va tutelato in tutte le sue maniere, però a volte si utilizza un pochettino, si utilizzano queste cose politicamente e non ci si rende conto che il male lo si fa al territorio, perché chiaramente la pubblicità negativa è proprio altro che l'anima del commercio, voglio dire, è proprio quello che distrugge tutto quello che... Quindi giustamente bisognerebbe anche imparare a fare informazioni, imparare a dare informazione, che è fondamentale. Quindi benvenga tutto ciò che sicuramente corsi di questo genere possono dare, proprio perché sono perfettamente d'accordo con la dottoressa, cioè oggi il turismo è una scienza, è sicuramente una disciplina che va studiata, così come chi deve fare l'avvocato va all'università, chi fa il commercialista fa all'università, oggi chi fa turismo deve studiare, cioè deve imparare che il turismo fatto in certa maniera deve giustamente conoscere quelle che sono le dinamiche, perché oggi è importante tutto, è importante appunto l'ambiente, è importante anche saper interagire con quello che è il contesto amministrativo, perché chiaramente anche quello che può essere poi l'intervento, diciamo anche da un punto di vista proprio di costruzione e di tutto, quindi è importante. Quindi benvengano questi corsi, benvengano giustamente i corsi anche universitari. Ringrazio tutti e faccio gli auguri a tutti quanti. Grazie. Grazie a Linda Di Francesco. Intanto io chiederei Leone Cantariglia, presidente dell'area marina protetta, ci raggiunge. Intanto volevo chiedere se ci sono interventi, suggestioni, se il presidente mi segnalavano dell'associazione degli albergatori di Pineto. Sì, c'è. Dove? Eccolo lì. Vieni. Non puoi scappare, non puoi sfuggire. Buonasera a tutti. Allora, io ho già detto alla presentazione del corso che realizzazione di questo corso fatta dall'area marina protetta è un, diciamo, è un andare verso il turismo in una maniera corretta. L'evoluzione che il turismo sta avendo è alla luce di tutti noi operatori. Quindi avete detto già tutto qui, la sostenibilità, la qualità, dobbiamo cambiare marcia verso i nostri potenziali clienti. Penso che abbiamo un territorio che è all'altezza di poter diciamo, lanciare questa sfida e possiamo in questa maniera forse recuperare quello che si sta perdendo in questa fase di, diciamo, di crisi. Quindi tutto quello che va verso questo, diciamo, verso questo turismo sostenibile, io la vedo come la cosa migliore che possiamo fare noi operatori, legandoci a, come si può dire, a un obiettivo che dobbiamo cercare tutti quanti insieme. È una categoria che non è facile tenere insieme, come tutte le categorie, però noi con, diciamo, con la nostra associazione, e sono diciamo, contento che una buona parte dei miei colleghi ha partecipato a questo corso. Io purtroppo non ho partecipato perché svolgo anche un'altra attività e avevo degli impegni e non mi ha permesso, però spero che se ci sarà un altro corso di partecipare, e quindi niente, faccio gli auguri a tutti i partecipanti per quello che hanno raggiunto e spero che si continui verso questa direzione. Grazie. Chiedo scusa, mi era sfuggita una parola che si chiamano anche parole tossiche. Avete già due o tre volte sentito parlare di crisi, allora io vorrei che fosse ben chiaro che se voi siete in crisi in questo momento non è colpa della domanda. La domanda straniera verso l'Italia cresce, da due anni cresce anche la domanda interna. Vorrei che questo non fosse un alibi. Ancora? Bravo. Idee, domande, richieste di approfondimenti? Se no, passiamo la parola a Leone Cantarini, presidente dell'area marina protetta Torre del Cerrano, uno degli che più ha voluto questo corso. Grazie Sebastiano. Mi sembrava strano che Stefano Landi non facesse la battuta al vetriolo, perché io me ne sono innamorato quando l'ho conosciuto a Ischia in occasione del convegno sul capitale naturale dell'area marina Regno di Nettuno. E quindi fui folgorato da questo suo modo proprio di entrare a gamba tesa sui problemi e dirla in una maniera molto schietta quello che pensava, e quindi ricevendo ovviamente apprezzamenti. Quello che invece volevo dirvi è che voi stamattina avete, come dire, lavorato, ma anch'io stamattina ho lavorato, nel senso non per far vino, che è il mio mestiere, ma per andare a sentire cosa dicevano in un altro consesso, dove presso la redazione del centro di Pescara stamattina c'è stato un forum sul piano strategico nazionale per il turismo 2017-2022. Siccome sono curioso come una scimmia, ho detto fammi andare un po' a sentire che dice l'altra campana come suona, e sono andato, e c'erano ovviamente, oltre al direttore del centro e alcuni giornalisti, c'era Giovanni Lolli, il nuovo assessore al turismo, come voi sapete, c'era Giancarlo Zappacosta, che è il direttore dell'assessorato al turismo, poi c'era Francesco Tapinassi, che voi conoscete, MIBAC. Del MIBAC, c'era Edoardo Colombo, presidente del Consiglio dei Ministri, agenda digitale. E lì ho sentito, no, queste parole, questi termini: turismo attivo, turismo esperienziale, l'autenticità, la valorizzazione dei prodotti tipici, la cultura del turismo, fare sistema con gli altri ambiti, cioè l'assessore regionale al turismo Lolli diceva: non possiamo prescindere da un coinvolgimento dell'assessorato all'agricoltura, dell'assessorato ai parchi, dall'assessorato ai trasporti, vedi i problemi della mobilità. Io ho detto: meno male, era ora. Ieri sera abbiamo avuto un'assemblea abbastanza violenta del consorzio di gestione, dove la regione è presente, proprio perché la mano destra non sa quello che fa la mano sinistra, per cui tra di loro si fanno delle delibere che una smentisce l'altra. Vabbè, ma chiuso questo argomento, Lolli ha parlato anche di non di usare la gestione dei numeri, cioè i numeri, le cosiddette presenze, devono servire per fare delle scelte e devono essere numeri in tempo reale, cioè non possiamo avere dei numeri sulle presenze 2 anni dopo rispetto alle presenze. Ha parlato anche di non comunicare quello che non si è, ha parlato del corso Asta, ha nominato il corso Asta, ha nominato che ha chiesto aiuto a Federparchi per cercare appunto di sviluppare un turismo mirato per quanto riguarda proprio il concetto della sostenibilità e delle aree protette. Ma la cosa che poi mi ha entusiasmato è stato che a mezzogiorno, siccome c'era una delegazione di tour operator della Scandinavia, hanno dato la parola a una delle persone che era a capo di questo gruppo, e questa signora, che oltretutto parlava perfettamente l'italiano, ha detto delle cose e hanno fatto delle domande a questa signora, cioè cosa vi aspettate voi che venite dalla Scandinavia, cioè che cosa si aspettano i turisti, e lei ha detto chiaramente la cosa importante è l'autenticità, l'accoglienza, la cucina. Ha detto anche: noi non distinguiamo tra Teramo, Vasto, Pescara, L'Aquila, per noi è Abruzzo, quindi ci ha voluto dire: evitate i campanilismi. Poi ha detto anche un'altra cosa che a noi ovviamente da una parte egoisticamente ci può far piacere, come area marina Torre del Cerrano. Ha detto che il mare, il vostro mare non è quello che noi scandinavi cerchiamo, perché noi cerchiamo un mare naturale con piccole strutture dove ci si può immergere, vedere dei pesci. E ha detto: noi ce l'abbiamo. Lei ha detto: io volevo andare a Silvi, però mi hanno detto che in provincia di Teramo che non ci potevamo andare perché il tour era finanziato dalla Camera di Commercio di Pescara. Questo per dirvi quello che è successo stamattina. Quindi sono, da una parte mi sono rincuorato, perché ho detto quell'intuizione che abbiamo avuto nel volere spingere e, come dire, anche fare una scelta, perché i soldi non bastano mai, non ci sono mai e non si potrebbe fare mai nulla, però è un fatto di scelta. Noi abbiamo deciso di togliere qualche festa e ricreazione, invece fare un corso che poteva servire agli operatori, perché quello che abbiamo percepito noi come, diciamo, CDA appena ci siamo insediati era proprio una poca percezione dell'area marina da parte della collettività, degli operatori, su Silvi più che su Pineto. Su Pineto, diciamo, c'è una maggiore consapevolezza, e quindi abbiamo detto: dobbiamo perseguire questo obiettivo, cioè cercare di portare questa consapevolezza tra la gente, tra gli operatori. Come lo dobbiamo fare? E abbiamo pensato che tutto quello che noi volevamo fare non poteva prescindere da un rapporto diverso con gli operatori, sia albergatori che balneari, e quindi abbiamo pensato di fare questo percorso. È sicuramente un percorso dove noi abbiamo seminato qualcosa, non abbiamo fatto ancora nulla, chiaramente ha bisogno di essere seguito, bisogna lavorarci, passare a fasi successive e cercare di portare a casa l'obiettivo è quello di preservare, tutelare, migliorare e far sì che tutto questo abbia un valore, che questo valore ricada sulla collettività tutta nostra. Per puntualizzare alcune cose che aveva detto Roberto Mion, per quanto riguarda il discorso dei ragazzi, noi abbiamo, come dire, delle piccole attività, certo, sono ancora cose piccole, nel senso che abbiamo tante visite guidate da parte delle scuole con il Museo del Mare che stiamo implementando, stiamo cercando di farlo diventare tutto multimediale proprio per attrarre le scuole. Con gli scout facciamo tante attività, facciamo pulizia delle spiagge, facciamo laboratori, quindi abbiamo una propensione verso i ragazzi. Per quanto riguarda i prodotti, ecco, qui bisogna, come dire, chiarirsi, perché noi siamo un'area marina e quello che abbiamo sono prodotti, diciamo, di mare. Noi prodotti di terra non li abbiamo, però bisogna dire che abbiamo l'Oasi dei Calanchi, che è un'area protetta regionale a meno di 10 km, abbiamo l'agricoltura di questi tre paesi, quindi Silvi, Atri, Pineto, che benissimo potrebbero essere un buon serbatoio di prodotti di qualità, e noi stiamo pensando di stimolare questo, ho già detto nei giorni scorsi, questo marchio geografico collettivo di natura ambientale, quindi con una connotazione ambientale trasversale su tutti i prodotti, e quelli dovrebbero essere i prodotti, diciamo, delle aree protette messe a disposizione di una enogastronomia e quindi degli utilizzatori un po' più sensibili a sposare questa causa. Io ringrazio i relatori, ringrazio Digitalia, Sebastiano, Cuto soprattutto, e tutti voi, perché ci date coraggio. Io queste cose le faccio perché tutto quello che amo ha dentro il mare. Adesso non ve ne andate perché c'è la consegna degli attestati. Guido e Diego, provvedete voi? Sì. Io vi saluto, scusate, ma mi sta... Arrivederci, grazie.